iniziamo, 8.02 minuti, il voltiamo pagina di oggi, un voltiamo pagina che non trova Silvia Albertazzi in diretta, innotata, si è spenta la mamma di Silvia, per chi non si fosse sintonizzato all'apertura del Breakfast Club, riporto ulteriormente all'interno della rubrica dove Silvia ormai è protagonista, questa sua giustificatissima assenza, anzi rinnovo le mie più sincere condoglianze a tutta la famiglia, a Stefano, a Silvia e ai figli, aspettando nuovamente il suo ritorno sui 103.1. Quindi iniziamo, come ho detto, una puntata, la notizia mi è arrivata in mattinata prestissimo, cui insomma avremo, come ho detto, un voltiamo pagina, non dico a mezzo servizio perché ci saranno sempre proposte letterarie da tenere in considerazione, abbiamo il 333-180-9494, il quiz, insomma in solitaria inizieremo questa nostra playlist letteraria un po' particolare quest'oggi, selezione musicale, ascolteremo musica, avremo modo di dialogare, anzi vi chiederò io in partenza, non dico un consiglio ma una condivisione, se avete mai letto un romanzo particolarissimo ma che è un fondamentale della letteratura, io ho iniziato, anzi sto iniziando a mettermi per quanto riguarda la lettura di Vita e opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo. È questo lavoro di Laurence Sterne, un prete irlandese cattolico che nel Settecento scrisse questo lavoro che è considerato uno dei pilastri fondatori del postmoderno in letteratura. Mi è stato consigliato da Andrea, che ringrazio e saluto, se all'ascolto dei 103.1 ne sono rimasto affascinato da subito, non solo dalle parole da Andrea che me l'ha consigliato, ma anche proprio per una narrazione che nel Settecento, dire avanti nei secoli, è un eufemismo. Samuel Beckett, Virginia Woolf diranno ma questo veramente altro che noi, questo sì che era avanti. Infatti stiamo parlando di un lavoro scritto nella metà del Settecento, La vita e le opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo, già l'etimo del cognome di questo protagonista che vuol dire confuso, e in effetti è confuso, non il protagonista in questo caso ma la narrazione, in maniera affascinante confusa almeno. E chiedo se avete letto o se conoscete questa pubblicazione, che è non solo un classico ma veramente un lavoro da leggere con attenzione per diversi riferimenti, per diversi approcci, per l'aspetto postmoderno e per quanto motivo di ispirazione sia stato da lì a venire. Quindi La vita e le opinioni di questo che non appare mai, da quello che mi hanno detto, all'interno della narrazione di Laurence Sterne, è trattato in maniera assolutamente originale, innovativa, in maniera anche piacevolmente ingannevole per il lettore, che diventa a sua volta interlocutore dello scrittore Laurence Sterne. In alcune pagine che mi è capitato così di sfogliare in lingua originale, interpella direttamente il lettore su alcune cose, poi ne parleremo successivamente nel prossimo capitolo, di un protagonista che in realtà non si vede mai, non appare mai in questa narrazione. Beh, se lo conoscete o se ne avete avuto la possibilità di un avvicinamento letterario, non è un libro semplice ma è quanto mai una lettura particolare, e vi dico questo perché ho trovato dei collegamenti nel libro che invece ho selezionato io per quest'oggi. È un'edizione Fazzi, ve ne parlerò a breve, come vi ho detto oggi mettiamo anche musica con i Commodores, I Wanna Sanctify, visto che stiamo parlando di uomini di chiesa, mi sembra un titolo di partenza quanto mai attinente. I feel sanctified. Sentirsi santificati porta un'attinenza tra il reverendo che è autore del lavoro che ha dato il via alla nostra playlist letteraria, Lawrence, scritto con la U e non con la W, già questa è una particolarità, insomma, che certo siamo nel Settecento, il nome del protagonista Shandy che è confuso, è un modo di così definire le persone in stato di confusione, come vi ho detto è una confusione voluta e quanto mai affascinante. Se ne avete avuto la possibilità di conoscere questo romanzo al quale mi sto avvicinando e del quale magari vi parlerò nelle prossime puntate, che è ormai un classico, beh, mi piacerebbe condividere con voi opinioni e quant'altro. Questo è l'inizio di questa strana puntata del Voltiamo Pagina. Ribadisco, ci sarà il quiz che parte già da adesso e ovviamente stiamo parlando di uomini di chiesa, allora parleremo di un grande maestro, di un grande filosofo della chiesa che sarà il protagonista del quiz, del quale darò qualche indizio via discorrendo. Il primo è già arrivato, no? Grande filosofo. Grazie Darko che manda il buongiorno, fa piacere sentirti in diretta, fa piacere fare co-conduzione con te caro Darko, e manda le condoglianze a Silvia. Grazie Darko. Abbiamo terminato la base che ci fa anche da sigla, allora la rimettiamo ed è il momento di parlarvi dell'autore invece che metterò in palio per quest'oggi. Alcune attinenze, perché alcune attinenze? Allora, da quello che ho intercettato da questo grande classico del Settecento dell'autore irlandese, ecco, allo stesso modo ho trovato una fortissima ironia. È un libro dove si ride, è difficile farmi ridere con questa proposta di narrazione, ma ci è riuscito e come. J.F. Powers con La morte d'Urban, Fazzi editore nella casa editrice. Anche in questo caso abbiamo un padre nell'Illinois che è il protagonista, appunto è padre Durban. (Sussurra) Altra attinenza, ieri abbiamo parlato tanto di Chicago, Illinois, anche qui siamo in Illinois. J.F. Powers nasce nel 1917, scompare nel 1999 e ricevette un'educazione cattolica e si percepisce come, seppur poi portando diversi motivi di grandissima ironia, fino a sfociare nella comicità alla Northwestern University. Pubblica i suoi primi racconti in un pamphlet, editore appunto di una piccola casa nell'Illinois, e in quanto convinto pacifista trascorse 13 mesi in prigione durante la Seconda Guerra Mondiale. Non ha voluto arruolarsi come disertore. Scrisse 3 raccolti di racconti, 2 romanzi, visse in Irlanda, visto che aggiungiamo delle attinenze con Lawrence Stern, poi ovviamente negli Stati Uniti, insegnò per molti anni alla St. John University in Minnesota. Questo romanzo, che vede la luce, adesso non ricordo esattamente il primo anno di pubblicazione, mi pare nel 1956, è, come vi ho detto, un percorso di vita di questo prete che definirlo originale è poco, lui non nasconde una grande passione per la bella vita, non nasconde una grande passione per i piaceri terreni, tutti, nessuno escluso. Allo stesso modo lui è l'idolo di questa parrocchia, che è abbastanza estesa e riconosciuta. Lui è fortissimo nel ricevere fedeli, è fortissimo nel star vicino, dare la parola giusta al momento giusto, ricevere e ricevimenti, perché alle feste, ai motivi di aggregazione anche di persone danarose, lui ovviamente è presente e protagonista, e allo stesso modo, insomma, denuncia l'eccesso di povertà che vuole rappresentare e vuole trasmettere la Chiesa. È un prete, come si direbbe, moderno, no? Beh, è talmente moderno che qualche sospetto poi lo lascia, ovviamente, ma ci arriveremo. È una scrittura, come vi ho detto, che in questi percorsi contraddittori, oltre che scorrevole, dà anche un motivo in più per non solo entrare nella vita di questo protagonista, ma per conoscere anche una schiera di personaggi abbienti e le loro contraddizioni intorno a questa particolare parrocchia. Beh, quello che è padre Urban sarà poi un percorso costellato non solo da questo aspetto di ricchezza, motivi di incontro, piaceri terreni, ma anche tante altre cose, perché non mancheranno, va da sé, è intuibile, anche le difficoltà. The way to the dark lies in Facendo un giro con Billy per fargli vedere il parco del noviziato, si imbatté in due dei suoi ex antagonisti. Adesso tutti pieni di sorrisoni, disse: «Sì, signor Cosgrove, quando hanno scoperto che la legna era destinata a lei, hanno temuto che non fosse abbastanza buona. Ne abbiamo più di quanta ce ne serve», disse uno. «Ma prego, ne prenda ancora in caso», disse l'altro. Padre Urban, continuando a camminare, condusse Billy fino alla grotta di Nostra Signora. Si inginocchiarono in preghiera per un attimo, poi bevvero alla sorgente. «Quest'acqua dovreste metterla in bottiglia», disse Billy. «Lei pensa che renderebbe?» «No», padre Urban scoppiò a ridere. «Vedo che adesso i nostri grandi amici, i padri dalmata, vendono i prosciutti, come è giusto che sia». Quindi è lui il primo a dire: «No, allora io capisco tutto, ci inginocchiamo, beviamo l'acqua della sorgente della Nostra Signora, insomma, certo, è importante, però io vi ricordo che altri padri vendono i prosciutti». Piace tantissimo il tuo nome. Do il buongiorno a Yuri. Buongiorno a tutte e a tutti. Condoglianze a Silvia. Grazie Yuri. Sto rispondendo a nome di Silvia, che ovviamente oggi non può essere in redazione. Ciao William, non lo conosco il libro Vita e opinioni di Tristram Shandy, Gentiluomo di Lawrence Stern, ma in vacanza ha letto Libro Bianco, che per me, adesso sto aspettando la tua recensione, a me è piaciuto tantissimo. Prossima settimana ti scrivo una recensione. Grazie Andrea. Condoglianze a Silvia anche da parte nostra, da Andrea e da Silvia. Grazie. Protagonista per il quiz. Allora, vi assicuro, insomma, poi adesso aspetto le vostre recensioni, non voglio assolutamente influenzare, perché magari alcuni libri da me accolti con grande entusiasmo non si sono poi rivelati all'altezza di quello che avevo presentato e della maniera in cui sia stato presentato, però giustamente aspetto le vostre recensioni. In questo caso, per quanto mi riguarda, la scrittura di J.F. Powers, edizione Fazzi, scritto nel 1956-57, morte Durban, aggiungo anche una parte, come abbiamo poi ascoltato durante la mia lettura a inizio di questa narrazione, che secondo me porta un'ironia molto forte, molto scorrevole e anche molto così dotata di un talento letterario non indifferente. Aggiungo altri indizi: questo grande filosofo, questo maestro della Chiesa, questo grande pensatore si imbatte in un ragazzino, la leggenda, il racconto vuole che passeggiando in riva al mare si imbatte in un fanciullo che sta facendo una cosa strana, una cosa assurda, ecco, per dirla in maniera più precisa. Questo ragazzino ha una pretesa, bah. E infatti davanti a questa cosa strana il nostro protagonista dice: ma cosa pensi di fare? Cosa credi di fare? Vi ho detto, no, è in riva al mare, quindi con il concavo di una buccia di zucca fa una buca e vuole svuotare il mare. Certo, lui rimane così. Come puoi pensare di svuotare il mare? Già è impossibile di per sé, ma addirittura dotato di una buccia vuota di una zucca e gettare in una buca l'acqua che riesci a travasare. È assurdo! La risposta fu immediata e, io lo voglio fare proprio perché è assurdo. Del resto, anche lei, portando prediche su Nostro Signore, se ci pensa, è assurdo. Dice a sua volta il credere perché è assurdo. Già arrivata la risposta, quindi J.F. Powers, Morte d'Urban, andrà nella biblioteca di Yuri. Grazie Yuri, lo puoi ritirare presso la libreria Ubic da oggi pomeriggio, che ringrazio per la collaborazione, in via Ernerio 27 a Bologna ovviamente. Grazie Yuri, ringrazio anche a chi è arrivato leggermente in ritardo, Luigi, Agostino ovviamente, Sant'Agostino, la risposta esatta anche del nostro campione, ma questa volta un vincitore che troviamo a sorpresa, Yuri, grazie. Libro di cui vi vorrei fare omaggio, tutto questo nella seconda parte. Comunque, Yuri è il nostro vincitore, restate sintonizzati perché vedremo un po' come portare anche nella seconda parte questa pubblicazione che vorrei donare, anzi in maniera meritata portare nella biblioteca di qualche ascoltatrice o di qualche ascoltatore. Il protagonista resta il nostro padre Urban, ovviamente, qui portato da Fazzi Editori nella narrazione di J.F. Powers. Tra l'altro lui come avete sentito, che parlantina, che eloquio. I suoi sermoni erano richiestissimi, era veramente una figura carismatica, sapeva il fatto suo, è anche molto legato ai campi da golf, l'amore per il golf, per le belle macchine e perché no anche a piaceri più carnali, ma comunque sempre e comunque rispettatissimo. Come ho detto, la voce arriva anche, non andrà sempre bene, ma questo ve lo racconto nella seconda parte di presentazione al Voltiamo Pagina. Intanto mettiamo un po' di musica, un po' di jazz dalla Romania. Ho trovato questo disco per la Sonar Collective e porto un po' di queste sonorità che sono state riscoperte oltre la cortina di ferro. Pubblicità, ritorniamo subito dopo con il Voltiamo Pagina di oggi, mercoledì 20 settembre 2023. A tra poco. We'll be right back. de batterie coule sur la FM. Il se mêle à mon sang et fait de moi un phénomène étrange. La cadence à fleur de peau, 5, 4, 3, 2, 1, tempo. Le vent se lève pour dire que mon karma suit la cadence qui me mène au nirvana. Ensorcelé, le pacte est scellé. La beauté du corps sans effort, c'est de danser. On me traite de traite quand je traite de la défaite du silence. Le silence est d'or, mais je choisis la cadence. Une vague, un cyclone, que dit la météo? Qui sème le vent récolte le tempo. Qui sème le vent récolte le tempo. Chaque mot, chaque phrase, dit avec emphase. Fais de Claude MC le commando de la phrase. Le tempo est roi dans l'arène musicale. Les reines sont à moi, torero, lexical, matador. Prêt pour la mise à mort, après le corps à corps. Alors fais un effort, remue ton corps plus fort. On est d'accord, pas de temps mort, mais sache pourquoi. Parce que le tempo est roi, le paramètre est paranormal. Que dire, que dalle, Claude MC s'installe. Entré dans les annales, exemple. Le rock, la salsa, le twist, le reggae. Petit à petit, sans faire de bruit, se sont imposés. Car qui sème le vent récolte le tempo. E anche da Luigi arriva l'abbraccio e le condoglianze per Silvia. Grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori del Voltiamo Pagina. Si riprende la diretta alle 8:38 minuti. Ho portato alcuni parallelismi tra due autori che hanno veramente un'attinenza molto molto vicina alla Chiesa. Uno è un protagonista che è Padre Durban dell'Ordine di San Clemente. Questa è una cosa che non ho detto, ma che sarà poi importante nello sviluppo della narrazione di J.F. Powers, e anche la vicinanza che ho trovato nella scrittura del classico postmoderno, ma nel Settecento, di Laurence Stern, Vita e opinioni di Tristram Shandy Gentiluomo. La musica è buona. Je prends souvent le temps d'aller de l'avant, je ne perds pas un instant. Come vi ho detto, iniziano poi anche le problematiche, ma non si perde d'animo. Allora, un superiore dell'ordine di San Clemente decide, insomma, ha troppo potere Padre Urban in questo contesto dell'Illinois. Oltre che vicino alle persone molto abbienti, lo vede un pochettino che è il momento di trasferirlo. E qui ho trovato delle attinenze con l'autore dell'Illinois, che passa poi parte della sua vita in Minnesota. Guarda caso, anche il protagonista Padre Urban arriva in Minnesota, viene trasferito in questa più dispersiva realtà territoriale, ma non si perde d'animo. Andrà nei capanni da pesca, si porterà in queste case dove la densità di abitanti è veramente molto più allontana, è molto, diciamo, come sapete bene, più dispersa, per cui le modalità per i suoi sermoni e il motivo in cui lui era forte, cioè la capacità di aggregazione, va un pochettino perdendosi. Ma lui non si perde d'animo, tutt'altro, anzi riceve una grande accoglienza e diventa anche in Minnesota una figura estremamente ben voluta e carismatica. Ma iniziano i guai. Chi sème le vent récolte le tempo. È MC Solar, questo brano che ha accompagnato il rientro in diretta. Beh, chi semina vento raccoglie tempesta, tradotto così nella maniera più immediata. Iniziano i guai. Inizieranno i guai per motivi appunto legati a, certo, una grande capacità d'aggregazione, ma quando si arriva in un posto più, diciamo, meno abitato, più disperso, così, ci sono ovviamente anche le contraddizioni, essendo lui così legato ai piaceri terreni e non solo. E quindi, beh, per scoprire tutti i percorsi di vita del protagonista di J.F. Powers è il libro che consiglio io quest'oggi: La morte d'Urban, le edizioni Pazzi. E perché no, anche nelle difficoltà lo scrittore non rinuncia certo alla sua vena fortemente ironica, fino ad arrivare a una sorta di raffinatissima comicità. È il libro della settimana per oggi, J.F. Powers, Morte d'Urban, edizione Fazzi. anche Maria si unisce a questo abbraccio, grazie. Allora, parlando di piccole realtà o realtà più disperse, ecco, per meglio dire, ho visto che ho nella mia biblioteca, perché ne ho una anche in redazione, che è un libro di Pierre Jourdi che avevo già presentato, che è La prima pietra, Preistorica Editore. Ho detto, perché insomma non rimettiamo in palio anche questo lavoro, che tra l'altro io consiglio assolutamente, un lavoro quanto mai ispirato, un lavoro che ovviamente è contemporaneo ma che dà un'importanza e una visione alle piccole realtà, alla provincia, soprattutto nelle sue contraddizioni, come questo protagonista si allontana, ma durante la sua permanenza è considerato assolutamente l'intellettuale, una persona oltre che carismatica, disponibile e ben voluta, fa un articolo, lui scrive, dove denuncia queste contraddizioni, e al suo ritorno, anche qui abbiamo un titolo ecumenico, chi scaglia la prima pietra, del resto il titolo è La prima pietra, viene accolto in maniera violenta, appunto viene preso a sassate da Preistorica Editore, questo lavoro che rimetto in palio. Ora siamo alle 7:43 minuti. Il disco di jazz rumeno, tra l'altro con la partecipazione di Maurice Pop, che è un musicista, è un tastierista e pianista secondo me molto ispirato, beh, è un lavoro che davvero ho detto, ma pensa te cosa è saltato fuori dal mio mobilone dei CD. Ne metto un altro brano, torniamo in diretta, quiz e saluti. Allora, non è venerdì ovviamente, certo è una vigilia, la vigilia d'autunno, abbiamo parlato della prima pietra di Pierre Jourdi che vorrei mettere in palio in questi ultimi minuti accompagnato dai saluti. 333-180-9494, perché ho citato il venerdì? Perché al venerdì va la musica italiana, una canzone di un grande autore che a me piace tantissimo, ovviamente musica italiana stiamo parlando, la canzone era Pietra su pietra. Chi è l'autore della canzone Pietra su pietra? Al 333-180-9494 per avere la prima pietra di Pierre Jourdi. La canzone Pietra su pietra, chi era appunto l'autore? Thank you. E si ritorna in diretta, siamo quasi al termine, aspetto le vostre risposte ovviamente, 333-180-9494, anche durante la pubblicità al termine del nostro Voltiamo Pagina di oggi. La prima pietra, Pierre Jourdi, per voi, preistorico editore, se mi dite l'autore e interprete della canzone Pietra su Pietra, quando al tempo del mini basket si tirava veramente male, in maniera scoordinata, arrivavano queste pallonate contro il tabellone. Ricordo che il coach cantava questa canzone perché appunto si tiravano pietre. Attendendo le vostre risposte mi congedo e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con il Voltiamo Pagina. Grande Giovanna è arrivata, no, lei a Ba Bersaglio, sì, era Fred Bongusto, grazie per te, la prima pietra di Pierre Jourdi, grazie Giovanna. Grazie anche a Dino che però è arrivato secondo in questo caso. Libreria Ubic, via Irnerio 27 a Bologna. Mercoledì prossimo avremo la prossima puntata del Voltiamo Pagina. Domani andiamo in mostra, a breve la pubblicità, poi Edipo Enciclopedico, Liberi Dentro, Rassegna Stampa e il grande Rock Live di Nevio. Un caloroso abbraccio, grazie per l'attenzione e per la partecipazione al Voltiamo Pagina di oggi. L'appuntamento a colazione è puntuale alle ore 7 con il Breakfast Club. Ciao a tutte, ciao a tutti e un buon mercoledì dal vostro William Piana. Ciao, a domani.